Presidente, allora il Partito Democratico tiene in sostanza, si è fermato il berlusconismo? Ma guardi, io rispondo alla sua domanda pensando agli ascoltatori naturalmente, con un'altra domanda. Eravamo un partito sotto assedio? Quanti dicevano che non esistavamo più? Quanti erano convinti che il centrodestra o la destra, se vi piace di più, avrebbe sfondato sopra il 40%? Io vedo che gli elettori hanno dato un giudizio, quello fino a quest'ora di sera, se non cambia, totalmente diverso. Alla prima uscita il Popolo della Libertà non prende i voti che avevano preso le formazioni che lo compongono. Il Partito Democratico, che tra avversari e qualche alleato che come primo obiettivo aveva quello di togliere voti al Partito Democratico, tiene larghissimamente la forza alternativa con capacità di proposta, capacità di tenuta. Noi oggi dobbiamo porci veramente il problema di costruire proprio la risposta ai problemi del Paese, anche dove o nei settori dove il governo arranca e ce ne sono. Questo è l'impegno che abbiamo, io credo, ed è la cosa che mi interessa di più, avendo fatto come tutti la campagna elettorale. Sono certo che il morale dei nostri militanti, dei nostri dirigenti, sarà diverso di quello che abbiamo rilevato noi anche nei mesi scorsi. Sarà diverso e noi potremo lavorare veramente per costruire l'alternativa a questo governo. Per vincere in Europa bisogna andare oltre il socialismo e quindi come ha fatto il Partito Democratico? Guardi, io qui so che da noi è aperta ancora questa questione, è nota anche la mia posizione, il mio partito, un po' anche all'esterno. Io difenderò quella, ma non ci spaccheremo, troveremo la soluzione tutti quanti assieme. Due gruppi con autonomia e politicamente alleati con quello socialista, per fare le battaglie che bisogna fare in Europa, perché l'Europa è in ritardo anch'essa rispetto alla crisi dei paesi europei. Forse un'azione anche sul piano dell'iniziativa politica più forte servirebbe a risolvere i problemi anche dei cittadini italiani.